problema che da anni si riscontra nelle indagini che realizziamo sulle imprese e poi parlando quotidianamente con gli imprenditori emerge anche dal vissuto appunto quotidiano. E il dato sembra essere riferito prevalentemente ad aspetti qualitativi dell'offerta. In sostanza non si allinea, non è allineata la domanda e l'offerta di lavoro, quindi le professioni che cercano le imprese non trovano sul territorio in cui lo cercano una offerta qualitativamente adeguata. Tanto è vero che quando chiediamo alle imprese che cosa faranno per risolvere questo problema che trovano nell'assumere personale che stanno cercando, più di un terzo delle imprese ci dichiara che assumerà una figura che ha delle competenze vicine ma non esattamente corrispondenti a quelle che sta cercando e poi provvederà in azienda magari ad integrare con della formazione, con dell'affiancamento la competenza completa. Quindi c'è un problema di profilo che non riesce ad accoppiarsi con precisione. Io penso che il primo problema sia proprio sull'orientamento. E cioè quando si decide un percorso formativo e poi si immagina un percorso lavorativo, non si dispone di sufficienti informazioni o le informazioni che si hanno a disposizione non sono ritenute abbastanza attendibili, abbastanza precise e quindi già nel momento in cui il giovane, lo studente, la famiglia decide un percorso, non ha un'idea chiara di quello che veramente il mercato locale del lavoro può richiedere. Quindi io penso che il primo problema da affrontare è radicare un sistema tempestivo di monitoraggio dei fabbisogni del mercato del lavoro e farli conoscere con tutti i sistemi alle famiglie, al sistema scolastico. Poi c'è un tema di formazione, non c'è dubbio. Tutto il sistema formativo oggi soffre di una certa distanza rispetto al mondo del lavoro, al mondo dell'impresa. Sa qual è uno dei problemi che le imprese ci segnalano più diffusamente? È la difficoltà di inserire nell'organizzazione aziendale una nuova figura, e quest'anno ci hanno detto che per più della metà potrebbero essere proprio giovani che escono dalla scuola superiore o dall'università, hanno difficoltà di inserire nell'organizzazione aziendale perché il giovane non sa come comportarsi all'interno di un'impresa. Viceversa, coloro che hanno fatto uno stage in azienda, magari nella parte finale del loro percorso formativo, hanno una rapidità maggiore ad inserirsi nel mondo del lavoro. Quindi c'è proprio il problema della formazione in contesto lavorativo da affrontare.